Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 17 gennaio 2015, 1 milione di veicoli elettrici negli Stati Uniti. Obiettivo raggiunto. Sulle strade americane circolano oggi 1 milione di auto elettriche. L'obiettivo, considerato da molti ambizioso, era stato fissato 4 anni fa dal presidente Barack Obama. Il piano Obama ha messo in campo sgravi fiscali per l'acquisto di un'auto elettrica, 2,4 miliardi di dollari per la ricerca e il miglioramento delle batterie, 115 milioni di dollari per l'installazione di colonnine di ricarica in 16 aree metropolitane statunitensi, 300 milioni di dollari in Clean Cities Grants per le comunità virtuose dal punto di vista energetico e soprattutto un mega assegno di 25 miliardi per la riconversione all'elettrico girato ai produttori automobilistici. Fin qui la notizia del 17 gennaio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. L'obiettivo di 1 milione di auto elettriche nel 2015 negli Stati Uniti dipende da molti fattori, come spiega Paolo Malagodi, docente di economia dei trasporti dell'Università di Ancona. Sul mercato di oltre 130 milioni di vetture circolanti, questo significherebbe uno 0,8%, quindi una vettura elettrica ogni 135. Certo, sarebbe un segnale forte tenendo presente i piccoli numeri dai quali si parte. Oggi guardando a Detroit si dice che tutte le case hanno pronto il veicolo elettrico, tant'è che i veicoli elettrici presentati negli stand, secondo gli osservatori, non fanno neanche più notizia, tante sono le proposte. Resta il problema del costo del veicolo elettrico e delle infrastrutture per gestire il veicolo elettrico, perché non possiamo pensare che uno nel garage di casa propria attacchi la spina la sera per far saltare tutto l'impianto di una città. Occorrono delle linee apposite a 380 volts di ricarica rapida in alcuni punti della città. In Italia cosa si fa? In Italia siamo all'anno zero. C'è una proposta di legge che è là, giacente da mesi, che dice diamo qualche soldo a chi vuole comprare le vetture elettriche. Pensare che il mercato si espanda rapidamente dipende da tutti questi elementi, considerando che l'industria è pronta e tutte le marche sono pronte con i loro modelli o con le loro concept car da tradurre in modelli di serie. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.